the time when you settle down. Comes a light, feelings lifting, lift that baby right up off the ground. Oh, this old sempre con Rock Legends su Radio RCS l'onda veronese. Le frequenze le facciamo dire come tradizione ai nostri ospiti questa sera, la Wild Shooter Band. Allora, potete ascoltarci al 98.6 per la bassa veronese e la zona della Lessina, al 101.5 per Verona città e rimanente provincia, il 91.5 per la zona lago. Inoltre Radio RCS la si può ascoltare anche attraverso lo streaming dal sito internet www.radiorcs.it. Rimanendo negli Stati Uniti, nel sound degli anni 70, andiamo ad ascoltare alcune canzoni di importanti artisti che hanno un grande legame con le sonorità tipicamente americane, cominciando da Neil Young, che abbiamo ascoltato con il brano Comes a Time, tratto dall'omonimo disco del 1978. Un Neil Young che si propose con un album più rilassato e country dopo un periodo in cui l'artista canadese aveva passato un periodo difficilissimo della sua vita. Che ne dite? Beh, come hai appena detto tu, Neil Young è un personaggio veramente da ammirare, perché lui riesce, dopo un brutto periodo della sua vita, lo chiamano addirittura la trilogia critica, a fare questo capolavoro, diciamo, perché era uscito da un momento in cui problemi familiari, problemi di droga parecchi. Poi Neil Young, secondo me, è veramente un idolo della musica, perché è un po' come dire la costanza, l'insistere, anche se la salute è contro di te, scegli, fai delle scelte che ti portano magari un pochino fuori pista, ma poi poter rinsavire e fare lavori come quello che ha fatto con questo brano che andiamo ad ascoltare. Che abbiamo ascoltato. Ti correggo. Inside è il titolo del vostro nuovo disco. Qual è il significato di tale semplice parola? Guarda, dietro questa semplice parola, come dici tu, c'è un significato ben preciso. Spesso i grandi artisti tendono nel loro secondo lavoro, terzo, diciamo, quando raggiungono o credono di aver raggiunto poi, insomma, un po' un'identità più precisa, tendono ad utilizzare quello che è il loro nome reale per dire: ecco, questo sono io. Nel nostro caso abbiamo voluto utilizzare Inside perché sentivamo la necessità di dire: ok, questo è quello che è uscito da dentro la band. Realmente questo lavoro, c'è da fare una piccolissima prefazione, questo è il nostro secondo album. Il primo è stato un lavoro nato prima della decisione di realizzarlo, e quindi è stato lavorato prettamente da me. Il secondo invece è stato realmente un lavoro di team, di tutta quanta la band, quindi ecco, da qui viene fuori Inside, perché è realmente un prodotto di ognuno di noi. Nel 1976 Bob Seger, grintoso cantante di Detroit, trova la strada del grande successo facendo uscire il disco Night Moves, da cui ascoltiamo l'omonima canzone. Tall, could use a few pounds. Tight pants, points, hollering out. She was a black-haired beauty with big dark eyes and points all her own, sitting way up high, way up firm and high. Out past the cornfields where the woods got heavy, out in the back seat of my 60 Chevy, working on mysteries without any clues, working on our night moves, trying to make some front page driving news, working on our night moves in the summertime. Some pie in the sky song. We were just young and restless and bored, living by the sword. And we'd steal away every chance we could, to the back room, to the alley or the trusty woods. I used her, she used me, but neither one cared. We were getting our share, working on our night moves, trying to lose the awkward teenage blues, working on our night moves. And it was summertime. Sweet summertime, summertime. Felt the lightning, yeah. Waited on the thunder, waited on the thunder. I woke last night to the sound of thunder. How far off, I sat and wondered. Started humming a song from 1962. Ain't it funny how the night moves, when you just don't seem to have as much to lose. Strange how the night moves. Artista ancora oggi sulla breccia, soprattutto in madrepatria, Bob Seger ha plasmato in quegli anni un tipico rock borderline che è stato di ispirazione per molti rockers a venire. Che ne pensate? Che ne pensiamo? Bob Seger è un grande rockers, appunto, ancora oggi in breccia in patria, diciamo. E niente, io è un grande interprete rock, ma soprattutto un grande autore. So che ha scritto brani per Springsteen, per gli Eagles, sì. Collaborazioni molto importanti con Mellencamp e con Van Morrison, che tra l'altro gli somiglia molto nel modo di fare rock e cantare. E anche nel reparto del cinema, varie colonne sonore. So che gli stanno facendo una stella nella Walk of Fame, quindi è un grande artista. Vostri ascolti musicali quali sono e quanto influenzano la composizione delle canzoni? Se parliamo di gusti, ci sono da dire due cose. Noi abbiamo in comune il fatto che siamo quasi onnivori, ci piace veramente un po' tutto, ma anche che amiamo il blues, amiamo il rock. Io vengo un pochino più dal jazz, dal funky, però adoro blues rock, ma soprattutto il Southern. Il Southern ci unisce e ci fa creare questo prodotto con queste sonorità, soprattutto grazie a Marco che si mette lì con tutti i suoi strumenti e riesce ad ottenere delle sonorità veramente fantastiche. La seconda parte si chiude con la Charlie Daniels e la sua band, violinista, cantante di scuola country con alcune prestigiose collaborazioni in campo folk rock. Daniels approda al Southern portando tutto il suo background e organizzando negli anni raduni musicali con grandi stelle del genere, dal disco Fire on the Mountain del 1974, l'inno The South's Gonna Do It Again. La terza e quarta parte ascolteremo sei brani del disco della Wild Shooter Band al titolo Inside. Picking down in Jacksonville. People down in Georgia come from near and far to hear Richard Best picking on that red guitar. So gather round, now gather round, chill and be down. Well, just get down, chill and get loud. Well, you can be loud here and be proud. And you can be proud here and I'll be proud to a river, cause the South's gonna do it again and again. But he sure can play. And there's CZ Top, and you can't forget that old brother Will is getting soaking wet. And all the good people down in Tennessee are digging barefoot Jerry. And-